Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo della Popolare di Bari, lo faremo in apertura perché oggi in Commissione Finanze vi è stata l'audizione dei commissari straordinari della Banca Popolare di Bari, e quindi Antonio Blandini e Enrico Aiello, e del presidente del Comitato di Sorveglianza della Banca Popolare di Bari, Andrea Grosso. In mattinata erano stati sentiti anche i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL. Però ne parleremo anche perché su Sole 24 Ore vi sono due notizie. Una è l'inchiesta di ieri di Angelo Mincuzzi, dove è emerso che a gennaio 2019 la Popolare di Bari cercò di collocare sulla Piazza Britannica, se ho ben capito, delle obbligazioni, ma nessuno le voleva. E questo la dice lunga, stiamo a gennaio del 2019, sulla reputazione della Popolare di Bari già allora, a dire il vero è dal 2016 che noi continuiamo a dire che la banca è estremamente a rischio. E dall'altro, sempre su Sole 24 Ore, ma di oggi, c'è una mappatura, diciamo così, delle operazioni ritenute spregiudicate, ossia bilanci aggiustati, prospetti informativi falsificati, mancate informazioni al mercato, ma anche prestiti, crediti dati in maniera assolutamente priva di ogni considerazione per il rischio a imprenditori che poi invece sono i prestiti sono diventati incaglie e poi sofferenze. Su 8 miliardi di crediti della Popolare di Bari, 1 miliardo non sono praticamente più esigibili, e anche di questo parleremo in apertura. Poi in attesa di capire cosa dirà Trump, che è attesa all'inizio della conferenza stampa, adesso praticamente conferenza stampa del presidente americano, dopo il lancio di missili ieri verso le basi americane in Iraq, e chiaramente immagino toccherà anche il tema di Soleimani, oltre che la risposta iraniana ieri con appunto il lancio di missili verso basi militari in cui, come abbiamo ricordato anche nel GR24, sono presenti anche soldati italiani. E di questo poi parleremo nella seconda ora, anche per riuscire a commentare in maniera più compiuta le dichiarazioni di Trump. Perché? Perché le borse, dopo alcuni timori, questa notte, soprattutto all'alba, Tokyo aveva aperto male, ha chiuso con un meno 1,60% dopo la notizia appunto del lancio dei missili, hanno tutto recuperato. Devo dire che Wall Street ha aperto e adesso è in positiva dello 0,20%, Milano mezzo punto percentuale di rialzo, Francoforte più 0,60%, Parigi più 0,20%, Londra meno 0,13%. Devo dire che poi a Milano e quindi a Piazza Affari i temi sono molto nazionali. Atlantia più 3,5%, mercato continua a scommettere un accordo con il governo italiano per quello che riguarda Autostrade per l'Italia e quindi Atlantia, e Leonardo più 2,70, Italgas più 2,30, Azimut più 2,20, Moncler più 2%, Pirelli più 1,90, Ferragamo più 1,70, Ferrari più 1,60 e Banca Generali pure negativa, Telecom meno 3%, e torneremo a parlarne, Poste Italiane meno 1,30, Fiat Chrysler meno 1,20 per cento. Mi dice non c'è la base musicale oggi, un ascoltatore, no, non solo adesso la mettiamo per le headlines, ma c'è anche una base nuova che mi piace molto e poi l'ascolteremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. E visto che parlavamo della reazione dei mercati, l'oro è tornato a 1593 dollari l'oncia, quindi dopo essere salito sulla scia dell'attacco iraniano alle basi americane a 1611 dollari, anche il petrolio ha ritracciato meno 2,3% a 61 dollari al barile. Continuiamo a ricordare da lunedì che per quanto vi sia stato un po' di rialzo del prezzo del petrolio, la vera notizia, a mio avviso, è il non rialzo, quindi la non sensibilità, diciamo così, del prezzo del petrolio alle tensioni mediorientali. Poi ne parleremo nei prossimi giorni, vi sono varie spiegazioni, l'eccesso produttivo e quant'altro, e anche un'ipotesi in cui, al di là delle dichiarazioni ufficiali, lo scontro non dovrebbe essere troppo inasprito. Però, insomma, questo è quello su cui scommette il mercato, anche perché l'OPEC e gli Emirati Arabi Uniti hanno offerto oggi rassicurazioni sulla disponibilità di petrolio in Medio Oriente. I mercati sono ben forniti, l'OPEC e i suoi alleati risponderanno se necessario. Non prevediamo una carenza di fornitura a meno che non vi sia un'escalation catastrofica che non vediamo all'orizzonte, così il ministro dell'energia degli Emirati Arabi Uniti Al Mazrouei, parlando con i giornalisti ad Abu Dhabi. Restiamo fiduciosi che si arriverà a un recupero della normalità in tempi brevi, ha poi aggiunto il segretario dell'OPEC Mohamed Barkindo. Però nel frattempo il gigante statale saudita delle petroliere, si chiama Bahri, ha deciso di sospendere temporaneamente le spedizioni attraverso lo stretto di Hormuz dopo gli attacchi missilistici iraniani alle basi militari statunitensi in Iraq, lo ha riportato il Financial Times. Mentre, sempre sul fronte dell'approvvigionamento energetico, da oggi il gasdotto Turk Stream è ufficialmente operativo. Hanno partecipato alla cerimonia di battesimo sia il presidente russo Putin che il suo omologo Erdogan, e c'era anche il ministro bulgaro Borisov e il presidente serbo Vucic. Tutti i quattro leader hanno girato la valvola che dà via alle forniture, ed è questa stata l'occasione in cui sia Putin che Erdogan hanno chiesto, per quello che riguarda invece la Libia, il cessate il fuoco. Ma qui le novità, come ricordavano il nostro GR24, sono relative all'arrivo dei due leader libici a Palazzo Chigi. Non sta ancora parlando Trump, a chi me lo chiede, stiamo guardando i canali internazionali, ma c'è ancora attesa, è ancora vuoto, diciamo, il leggio alla Casa Bianca. Andiamo avanti, al di là di tutte le dichiarazioni di Khamenei, dall'Iran, abbiamo dato uno schiaffo agli Stati Uniti, non è finita, però alcuni media sostengono che l'Iraq avrebbe avvertito in anticipo gli Stati Uniti dell'attacco che si stava per verificare, un attacco missilistico, non c'è nessuna vittima. Viene confermata l'assenza, per fortuna, di vittime. Khamenei ha poi aggiunto: non faremo un passo indietro. E Rouhani, il presidente iraniano Hassan Rouhani, ha detto: hai tagliato le braccia, riferendosi agli Stati Uniti, al generale Soleimani, noi taglieremo i tuoi piedi dalla regione. E ha aggiunto poi: non ci ritireremo di fronte all'America. Poi l'Iran all'ONU, l'ha detto l'ambasciatore di Teheran all'ONU, l'Iran non vuole la guerra con gli USA, ma si riserva il diritto all'autodifesa e prenderà tutte le necessarie e proporzionate misure contro ogni minaccia o uso della forza. E per quello che riguarda le compagnie aeree, è stato uno dei primi temi di approfondimento lunedì, Cathay Pacific, Malaysia Airlines e China Airlines hanno deciso, dopo Singapore Airlines, come la stragrande maggioranza delle compagnie aeree asiatiche, eviteranno lo spazio aereo iraniano e iracheno. Per esempio Cathay Pacific ha deciso che la sua flotta sarà operativa lontano dagli spazi aerei dei due paesi. Vale la stessa cosa anche per Korean Airlines, China Airlines che è di Taiwan, Malaysia Airlines e anche Philippine, mentre Thai Airways e Philippine Airlines in questo momento per ora non stanno modificando le rotte. Invece tutti i vettori degli Emirati Arabi Uniti, quindi Emirates Airline e Fly Dubai, hanno annunciato di aver cancellato i voli per Baghdad per motivi operativi. Fly Dubai è una compagnia low cost e ha cancellato il suo volo di linea per Baghdad, ma continua a operare verso l'Iraq sia per Bassora che Najaf. Il Gulf Air, che è la compagnia del Bahrain, ha sospeso invece i voli da e per Baghdad. Per quello che riguarda le compagnie europee, Air France ha sospeso i voli sullo spazio aereo tra Iran e Iraq, così come ha fatto Lufthansa sempre i voli per Iran, Lufthansa ha sospeso anche i voli per Iran e Iraq, mentre Air France ha sospeso i voli sullo spazio aereo di Iran e Iraq. Mosca ha sconsigliato voli civili sull'area, sullo spazio aereo di Iran e Iraq e sul Golfo Persico in generale. Cambiamo radicalmente tema, ma restiamo in Medio Oriente, perché la conferenza stampa dell'ex amministratore delegato di Renault Nissan, Carlo Ghosn, ricordo agli arresti, prima in carcere, poi domiciliari, perché è accusato di corruzione, di avere distolto milioni di euro dal gruppo che guidava, quindi Renault Nissan, e che in maniera rocambolesca, so che ha già venduto i diritti, si sta già pensando a un film su Netflix, per come è riuscito a lasciare Tokyo via Istanbul dentro, da quello che si è capito, una cassa per strumentazione tecnico-televisiva con dei fori. Comunque Ghosn ha fatto la sua conferenza stampa, ha detto: sono fuggito dal Giappone per liberarmi dalle ingiustizie, fin qua poca notizia. Poi ha detto: sono vittima di un complotto di Nissan e della procura giapponese. Sentiamo questo passaggio. Every day for over 130 days in detention, I fought for my innocence. Ogni giorno, per gli oltre 130 giorni di detenzione, ho combattuto per la mia innocenza. Quando finalmente mi è stata concessa la libertà su cauzione e ho reso pubblica la volontà di parlare con voi, nel giro di 24 ore mi hanno ributtato in isolamento. Un trattamento che è stato contro i principi fondamentali del rispetto dei diritti umani. Sono stato un presunto colpevole e vittima di un sistema il cui solo obiettivo era di estorcere confessioni e assicurare un colpevole. Le collusioni tra Nissan e gli accusatori sono evidenti ovunque. Le sole persone che non vedono queste collusioni sono in Giappone. The only people who don't see it, maybe, are the people in Japan. Andiamo all'Italia, lo spread è leggermente in calo, 162 punti, e delle prospettive economiche del paese ha parlato oggi il presidente Confindustria Vincenzo Boccia, a margine della conferenza stampa per presentare l'appuntamento di fine febbraio a Milano con Connext 2020. Ha detto Boccia: bisogna andare oltre l'emergenza, come il caso dell'ex Ilva, e costruire una politica economica in grado di reagire a previsioni economiche che non lasciano ben sperare. Vedo aspettative positive e previsioni economiche negative. Occorre fare in modo che le previsioni siano all'altezza delle aspettative dei cittadini italiani e delle imprese italiane. Per farlo occorre una convergenza di tutto il paese, dai sindacati alle imprese, alla politica nazionale, all'Europa, che deve avere un'attenzione rilevante al modello di crescita e non può usare poche risorse per effetto moltiplicatore, ma occorre un piano shock rilevante a nostro avviso. E poi sulla vicenda ArcelorMittal, dopo ne abbiamo parlato a lungo ieri, il tribunale del riesame che ha accettato il ricorso e quindi non fa spegnere l'altoforno 2, ha detto il presidente di Confindustria ieri: la buona notizia è che non viene chiuso l'altoforno, quindi si riapre la trattativa con gli azionisti, abbiamo scavallato l'emergenza. La buona notizia di ieri è che l'alto forno non viene chiuso e quindi si riapre una trattativa con gli azionisti, e l'idea è chiaramente quella di sempre, che appunto l'Ilva sia un grande asset per il paese. Adesso vediamo venerdì, l'importante è che abbiamo scavallato l'emergenza, se così possiamo dire, e speriamo, incrociamo le dita, sia nell'interesse dei lavoratori, per l'impresa e per lo Stato italiano, che si possa trovare una soluzione. Detto questo, dobbiamo andare oltre le questioni di emergenza e quindi anche oltre l'Ilva e costruire un'idea di politica economica che sia in grado di reagire a una previsione economica che purtroppo, come dire, non fa ben sperare. Sulla vicenda Ilva, oggi a 24 mattino, quindi a Radio 24 con Simone Spezia e Maria Latella, è intervenuta anche il segretario della CISL, mi riferisco a Anna Maria Furlan, che ha definito grave la decisione di escludere i lavoratori dal processo di trasformazione dell'ex Ilva. Io credo che sarebbe davvero negativo se qualcuno immaginasse, in una trasformazione così importante, di non coinvolgere attraverso la contrattazione le organizzazioni sindacali. Questo significherebbe non riconoscere il ruolo dei lavoratori nella trasformazione e anche dei tanti sacrifici che proprio i lavoratori dell'Ilva hanno fatto in questi anni. Io è per quello che mi permetto di dire che dobbiamo ripartire dall'accordo che c'è, 4 miliardi che ci sono e che ArcelorMittal si è impegnata ad investire. Se poi accanto a questo c'è anche l'implementazione attraverso il governo, attraverso soggetti finanziari, per fare ancora meglio, benissimo, siamo tutti contenti e al meglio non poniamo limiti. Allora, sempre per le notizie in breve, andiamo all'ultima, prima di passare alla popolare di Bari, all'Italia. Allora, il ministro Stefano Patuanelli, oggi ci sono state varie audizioni, sono continuate le audizioni in Commissione Trasporti. Il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ha detto non è scritto da nessuna parte che il closing dell'operazione sia entro il 31 maggio, è materialmente impossibile e quindi esclude che di poter chiudere il 31 maggio. Patuanelli ha detto inutile continuare a parlare di Atlanti, è assolutamente inutile, occorre poi che ci sia un'interlocuzione immediata tra il commissario straordinario dell'Italia, Leo Grande, con FS e Delta per la comprensione delle esigenze di quel piano industriale. Però su questo è intervenuto l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti, sempre in audizione alla Commissione Trasporti, e che ha detto guardate che il 31 ottobre abbiamo presentato una proposta di offerta d'acquisto condizionata ad alcuni elementi per noi imprescindibili, quindi l'individuazione di più investitori, cioè non volevamo essere noi a prendere la maggioranza della società. Il 1 agosto 2017 i commissari hanno pubblicato il bando di gara per la procedura di vendita delle attività aziendali delle due società. Ad aprile 2018, in assenza di offerte vincolanti ritenute valide alla scadenza della procedura, è stata estesa fino al 31 ottobre 2018. In tale contesto, Ferrovie dello Stato Italiano, dopo aver presentato il 12 ottobre 2018 ai commissari straordinari la propria manifestazione di interesse all'acquisto e dopo che le autorità di governo le avevano rappresentato l'auspicio che l'interesse già manifestato si potesse tradurre nella presentazione di un'offerta definitiva e quindi di proseguire verso una più complessa articolazione di un sistema di trasporto integrato a livello nazionale. Il successivo 31 ottobre, di fatto, noi come gruppo Ferrovie dello Stato abbiamo presentato una proposta di offerta di acquisto dei rami di azienda di Alitalia. Tuttavia, noi abbiamo presentato l'offerta, ma un'offerta era condizionata ad alcune condizioni che noi ritenevamo imprescindibili, quali ad esempio che ci fossero delle risultanze soddisfacenti per quanto riguarda le due diligence relative a ogni singolo aspetto dell'operazione, all'individuazione di uno o più investitori, perché noi non avevamo intenzione di consolidare, di prendere la maggioranza dell'operazione, e che ci fosse soprattutto un primario vettore aeronautico che per competenze, per esperienza e quindi know-how potesse in qualche maniera garantire un pieno rilancio della compagnia. E poi su Atlantia c'è stato un botta e risposta tra Battisti e anche la società Atlantia, perché Battisti ha detto, come amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, dopo aver definito l'operazione con Delta un'operazione chiusa e che non sta a loro riprenderli ma chi sta gestendo l'operazione all'Italia, ha detto è emerso in maniera evidente che l'ingresso di Atlantia nel piano di rilancio dell'Italia fosse condizionato alla risoluzione di altre vicende, e quindi il riferimento è alla trattativa tra virgolette in corso con lo Stato italiano sulla gestione autostradale. Io devo dire una cosa, alcuni hanno storto la bocca, ma era evidente che se tu chiedi ad Atlantia di entrare nell'Italia nel momento in cui stai minacciando di levare le concessioni, comunque di andare verso un contenzioso, sarebbe diventato un oggetto di scambio. Non bisogna fare le mezze vergini su questo. L'errore è stato chiedere ad Atlantia di entrare e immaginare che Atlantia non avrebbe trattato su quello che era l'altro fronte, quindi le concessioni autostradali. Comunque, sentiamo Battisti. L'11 settembre abbiamo rappresentato come Ferrovie dello Stato ai commissari straordinari che non vi erano le condizioni per presentare un'offerta definitiva, rendendosi necessario un ulteriore periodo di lavoro e di valutazione. Non poteva concludersi ragionevolmente entro il 31 ottobre 2019, rimanendo comunque in attesa della valutazione dei commissari straordinari della decisione circa l'assegnazione di un'eventuale ulteriore proroga. i commissari straordinari, acquisito l'avviso del Ministero vigilante, considerante le esigenze operative e le disponibilità finanziarie della società in amministrazione controllata, con nota del 18 settembre 2019, hanno ritenuto di poter accogliere solo parzialmente la richiesta di differimento del termine per la presentazione dell'offerta, fissando la relativa scadenza non oltre la data del 15 ottobre 2019. FS ha quindi continuato a dedicare risorse e tempo con l'obiettivo di raggiungere a un esito positivo dell'operazione, tuttavia solo ad ottobre Atlantia, dopo un periodo attivo di collaborazione, quindi mesi di lavoro congiunto, ha formalmente esplicitato un diverso allineamento su quella che era la valutazione complessiva del business di Alitalia, con richiesta da parte della stessa Atlantia di valutare la ripresa eventuale di contatti con Lufthansa, nonostante la compagnia tedesca non avesse mai espresso formalmente un proprio interesse ad entrare in operazione anche nell'equity della nuova Alitalia. Era già emerso quindi in maniera chiara come l'approccio di Atlantia al dossier fosse comunque condizionato alla soluzione di altre vicende che riguardavano il loro gruppo. E su questo Atlantia ha risposto in una memoria inviata alla Camera: è falso che ci siamo sfidati, siamo disponibili su Alitalia a un confronto sul rilancio, noi siamo seri con un impegno di persone e risorse per quello che riguarda appunto l'investimento di Atlantia, cioè l'ex autostrada per l'Italia, in Alitalia. Allora adesso andiamo alla Popolare di Bari, ma prima una notizia che arriva dalla Puglia. Io non voglio far polemica, però di tutti i problemi che ha la Puglia, abbiamo visto l'IVA, gestione dell'ILVA, Popolare di Bari, che è la banca non importantissima a livello nazionale ma molto importante a livello regionale, il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, con cui abbiamo polemizzato già altre volte, oggi ha detto, tu pensi, di cosa si occuperà Emiliano? Della Popolare di Bari? Di quello che scrive Sole 24 Ore, ieri e oggi? Dell'ILVA? No. Si occupa ancora del TAP, cioè del gasdotto che deve portare il gas in Italia ma nel resto anche d'Europa, e dei famosi 10 km, 8 km e dei 200 livi spostati. Cosa ha detto Emiliano? Chiederemo a TAP un risarcimento miliardario per danno d'immagine. Se dovessero essere condannati ci risarciranno miliardi di euro, perché il danno è enorme e il vantaggio è zero per la Puglia. A noi del TAP non interessa niente. Allora, al di là del fatto che vorrei capire come si fa a quantificare il danno della TAP per la Puglia in miliardario, ma al di là di questo è interessante, il vantaggio è zero per la Puglia, noi di TAP non importa niente. Quindi con la stessa logica l'Emilia Romagna, ecco perché ho fatto un lapsus, che è attraversata come buona parte del nord Italia o il Veneto da gasdotti che vanno magari a rifornire di gas i pugliesi, dovrebbero dire semplicemente a noi che ce ne frega del gas che va ai pugliesi. Ma io non so se Emiliano ogni tanto, diciamo, si rende conto, il vantaggio è zero per la Puglia, sì, perché quel gasdotto non rifornisce di gas i pugliesi, così come i gasdotti che passano per esempio da Tarvisio servono a altre regioni, non servono solo ai friulani. È un principio abbastanza elementare questo, non è che il gasdotto serve solo alla regione che attraversa. Altrimenti vorrei sapere, con questa logica, che gas arriverebbe alla Puglia, per esempio. Ma mi sembrava più urgente parlare della Popolare di Bari, infatti noi faremo così, e quindi, al di là del risarcimento per danno di immagine, avrei voluto vedere posizioni molto forti anche nei confronti della Popolare di Bari, di Jacobini, della famiglia Jacobini, come danno di immagine alla Puglia. Parliamo della Popolare di Bari e introduciamo una nuova base, così almeno alleggeriamo un po'. Chissà se qualcuno la riconosce, non è nuovissima, però è tornata di moda. Dunque, oggi in Commissione Finanze, audizioni, il discorso di Trump, sta parlando Trump in questo istante, me lo chiedono alcuni ascoltatori, dopo il meteo cercheremo di dare qualche sintesi. Oggi in Commissione Finanze sono stati auditi i commissari straordinari della Banca Popolare di Bari, Blandini e Aiello e il presidente del comitato di sorveglianza della Popolare di Bari. Sentiamo, anzi facciamo così, andiamo sul meteo e poi diamo anche una sintesi di Trump e sentiamo cosa ha detto Aiello e cosa ha scoperto in questi due giorni. Il Sole 24 Ore, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. minuti, dunque Trump ha appena detto in rapida sequenza che l'Iran non avrà mai l'atomica finché lui sarà presidente, ha ricordato che nessun americano è rimasto ferito dai missili iraniani, che Soleimani era il maggiore terrorista al mondo che aveva le mani sporche del sangue dei soldati americani e iracheni, che tutte le opzioni restano sul tavolo con l'Iran e che gli Stati Uniti imporranno nuove sanzioni all'Iran. Il discorso si è concluso nell'arco di 5 minuti. Trump ha già lasciato la conferenza stampa. Nel frattempo vedo molti messaggi su Emiliano, qualcuno mi fa notare che il danno d'immagine che il paese dovrebbe chiedere per la Xylella in Puglia, allora dovrebbe essere Emiliano. Lasciamo stare Emiliano, dai. Andiamo invece su con Angelo Mincuzzi da un lato. Buonasera Angelo. Buonasera. E dall'altro con Ivan Cimarusti. Buonasera Ivan, in collegamento. Buonasera. Dei nostri studi romani. Allora, tra ieri e oggi sul quotidiano Sole 24 Ore sono uscite due inchieste. Non voglio tornare sulla Popolare di Bari, su De Busti, sulla famiglia Iacobini, su tutte le sulla vigilanza o meno della Banca d'Italia e quant'altro. No, qui emergono due cose abbastanza inquietanti. Parto da quella che ha scoperto Angelo Mincuzzi. Se ho ben capito, Angelo, nella City di Londra e in generale, quindi nei mercati finanziari, già, io dico secondo me già da prima, però almeno da gennaio del 2019, la Popolare di Bari era considerata spazzatura, voglio essere chiaro, e cioè tu hai scoperto che Iacobini tentò di collocare un'obbligazione, cioè di raccogliere dei soldi attraverso un'emissione obbligazionaria dai 20 ai 30 milioni di euro, ma nessuno nel mondo della finanza andò a sottoscrivere, cioè tutti si rifiutarono di sottoscrivere, quindi l'operazione, se ho ben capito, non venne neanche realizzata. Sì, la cosa è nota, ne ha scritto anche il Sole 24 Ore in passato. Ci fu un tentativo fatto da Vincenzo De Bustis all'epoca, quindi fine 2018, amministratore delegato della Popolare di Bari, per migliorare i coefficienti patrimoniali attraverso l'emissione di bond cosiddetti tier 1, cioè bond subordinati ad alta rischiosità ma anche ad alto rendimento, la cui emissione avrebbe, come dire, migliorato la situazione della banca. Cosa racconto nell'articolo pubblicato sul Sole e che si può trovare sul sito del Sole 24 Ore? De Bustis si rivolge a un finanziere, un esperto, un broker londinese che si chiama Gianluigi Torzi, è italiano ma vive a Londra da 20 anni, e gli chiede in qualche modo di saggiare il terreno per non esporre probabilmente la Banca Popolare, che in quel momento non aveva grande fama. Cioè già si sapevano le loro vicissitudini, e quindi si rivolge a questo Gianluigi Torzi, il quale cerca di collocare, cioè saggia, come dire, fa da avanguardia, no? Chiede ai suoi partner finanziari: sareste disposti a sottoscrivere dei bond della Banca Popolare di Bari? La risposta che tutti gli danno è no, questa è spazzatura, cioè nessuno era disposto all'inizio di gennaio del 2019 a investire nella Banca Popolare di Bari. Ora, perché è importante quello che tu hai scoperto, insomma, e la testimonianza che ti ha dato anche Gianluigi Torzi? Uno potrebbe dire, vabbè, ma dai, è dal 2016 che continuiamo a dire e scrivere dopo Popolare di Vicenza, dopo Veneto Banca e con quello che stava già succedendo alla Cassa di Risparmio di Genova, il prossimo caso sarebbe stato la Popolare di Bari. E allora perché uno dovrebbe vedere in maniera abbastanza inquietante quello che ti ha raccontato Torzi a inizio del 2019? Ma perché chiaramente una situazione disastrosa della banca è sicuramente stata nascosta, diciamo, all'opinione pubblica. Emergevano dei segnali rassicuranti dalla banca, dei segnali rassicuranti, la banca è solida, continuate a investire, non ci sono problemi. In realtà, ma io credo già da prima di gennaio 2019 il mercato sapeva che la situazione della Banca Popolare di Bari era disastrosa e che la banca avrebbe avuto bisogno di più di un miliardo di euro, non di 20-30 milioni. Certo, quello che è emerso, secondo quello, la testimonianza di Torzi, è che questa piccola emissione di bond subordinati, almeno nella visione di De Bustis, come dire, era un primo tentativo di assaggiare il terreno. Se il mercato avesse acquistato i bond, lui avrebbe chiaramente emesso bond per quantitativi enormemente superiori, perché 20 milioni su una situazione così grave come quella della Banca Popolare di Bari non avrebbero potuto far nulla. Allora, molti ascoltatori mi scrivono della Banca d'Italia, ma com'è possibile che nella City di Londra tutti sapessero già tutto? Neanche un collocamento, perché è basso, 20-30 milioni sono poca roba. Veniva respinto e invece la Banca d'Italia ha atteso fino a novembre. Ho capito, bella domanda. Voglio dire, Ivan Cimarussi l'ha scritto tante volte sul Sole 24 Ore, ha parlato dell'ispezione della Banca d'Italia nel 2016 sicuramente, no, ma anche nel 2010 sicuramente. E il problema è che come sempre, di fronte, come è spesso accaduto ultimamente anche per le banche venete, per altre banche, probabilmente la Banca d'Italia avrebbe potuto avere un comportamento più conseguente. Sì, beh, adesso non voglio tornare sui vecchi temi sulla Popolare di Bari, però attenzione, perché la cosa che a me lascia molto sorpreso è che le ispezioni della Banca d'Italia avvengono nel 2010 e impediscono, voglio ricordare tutte le date, gli ispettori vedono una situazione così difficile da proibire alla Popolare di Bari acquisizioni di altre banche. Tornano nel 2013, scoprono anche lì delle cose che non vanno bene, a partire, leggo testualmente agli ispettori, alcune esposizioni verso alcuni soggetti, il gruppo Fusillo che passa da 177 milioni di prestito a 638 milioni, gli ispettori dicono, attenzione, questa logica non segue l'indicazione di spezzettare il rischio e diversificare, non concentrare il rischio su un unico soggetto, ma ciò nonostante nel 2013 danno l'autorizzazione alla Popolare di Bari ad acquistare Tercas. E lì sospetto, lo dico perché l'hanno scritto molti, è che questa, diciamo, autorizzazione sia arrivata anche perché la Banca d'Italia stessa nel frattempo aveva fatto un prestito a Tercas per 480 milioni, quindi stava cercando un compratore, ma sono sospetti. Fatto sta che c'è stata quantomeno dell'incoerenza tra analisi degli ispettori e poi quello che la Banca d'Italia ha autorizzato. Cimarusti, sei stato già citato, Ivan, da Angelo Mincuzzi. In realtà io con te vorrei parlare appunto dei prestiti, perché una banca salta per aria in questo caso per i prestiti concessi. Appunto, io citavo gruppo Fusillo, che non si capisce come fa uno a passare da 177 a 640 milioni di prestito, ma tu hai scoperto che in realtà sono 20 almeno di sesti societari dentro la pancia della Popolare di Bari. Se però vuoi commentare anche, visto che ti citava Angelo, il ruolo della Banca d'Italia, qua siamo. Sì, effettivamente oggi con la collega Sara Monaci abbiamo affrontato l'aspetto delle società che sono state finanziate dalla Banca Popolare di Bari. Sono una ventina e il dato emerge dai prospetti che ha depositato la Consob alla Procura della Repubblica di Bari, che come è noto ha 7 diversi procedimenti in corso di istruzione sull'istituto che era controllato dalla famiglia Jacobini fino a poco tempo fa. Certo. Si parla appunto di finanziamenti dati senza meriti creditizi e che avrebbero provocato avrebbero contribuito a provocare la voragine nei bilanci della società. Ecco, quindi è un capitolo. E devo molto dire che qui la fotocopia è abbastanza simile alle quattro banche: Etruria, Marche, Chieti, Ferrara, e in parte anche Veneto Banca, e in parte anche Popolare di Vicenza e Cari di Genova. Ma perché effettivamente possiamo dire che il copione si ripete, lo abbiamo visto, come giustamente facevi notare, con le venete. Cioè si parla sempre di finanziamenti concessi a società che non avevano meriti creditizi, ma anche operazioni baciate, cioè quei finanziamenti dati per consentire poi a chi riceveva i soldi di comprare azioni della stessa banca. Insomma, è la stessa narrativa, diciamo. Poi prima hai detto una cosa importante, cioè abbiamo parlato di Banca Italia, di quello che ha fatto Banca Italia. Beh, ma Banca Italia e Consob hanno messo sotto monitoraggio l'istituto per 10 lunghi anni, cioè giustamente dicevate si parte dal 2010, poi ci sono le ispezioni del 2013 che sono un nodo fondamentale, e nel 2014, a settembre del 2014, la Banca d'Italia autorizza la Banca Popolare di Bari, che prima era stata inibita dal farlo, ad acquisire Tercas, che tra l'altro era una banca ancora sotto commissariamento. Cioè messa anche peggio quel tempo. Forse, esattamente, cioè come dire due... Sì, ma io vorrei ricordare che la Banca d'Italia è quella che spinge per avere Zonin, prima che scoppi il caso Popolare di Vicenza, a acquistare Popolare Etruria per un euro. Cioè attenzione che su questo, io lo dico con massimo rispetto per il governatore, so benissimo che gli strumenti delle volte sono insufficienti, però io continuo a ritenere che la linea in cui, che vedo dalla Banca d'Italia, cioè abbiamo fatto tutto il possibile con tutte queste crisi bancarie, sia una linea quantomeno difficile da reggere da questo punto di vista. Adesso andiamo sul traffico, poi però Ivan vorrei che tu ci raccontassi le caratteristiche di questi 20 dissesti societari. Io cito sempre il gruppo Fusillo perché è quello, insomma, che a me colpisce di più. Avevi già 177 milioni nel 2008 di linea di credito e arrivi a 640. Io sfido chiunque di voi a passare da una linea di credito da 177 mila euro a 680 mila euro senza dare in garanzia anche la suocera, che poi sarebbe un buon modo per alcuni per andare in banca. Comunque ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Dunque, vorrei che fosse messo agli annali che il collegamento col traffico più breve della storia di Radio 24, 15 secondi, non c'è traffico nel paese, a meno questo. Ivan Cimarusti, ci dai le caratteristiche di quello che avevi in pancia? Perché dicevo prima, su 8 miliardi di crediti, 1 miliardo non sono esigibili. C'è qualche caratteristica comune? Allora, il sospetto, come negli altri casi, è che voglio dire, fossero amici degli amici, vi fossero scambi sul territorio, il controllo del territorio e quant'altro, a proposito dell'immagine della Puglia che sta tanto a cuore al governatore Emiliano. Prego Ivan. Ma guarda, il punto non è tanto se il motivo per il quale facessero i finanziamenti, perché poi in molti casi effettivamente parliamo di imprese che poi avevano anche un'importanza strategica a livello economico e imprenditoriale per la Puglia, quindi io non mi sento di dire che tutti i finanziamenti erano stati concessi senza meriti creditizi. Diciamo che i prospetti della Consob fanno una fotografia al 2016, quindi ad esempio, faccio un esempio, parlano della società Roma Global Service, che sarebbe la società degli la Roma Global Service è della società degli Angelucci, okay. Però gli Angelucci comunque poi loro hanno dichiarato effettivamente di aver sanato i loro debiti. Poi c'è addirittura il Pastificio Rummo, che anche loro avevano ricevuto dei prestiti e che secondo Consob i loro crediti erano andati in sofferenza. E poi c'è anche Parnasi, che sarebbe il famoso immobiliarista, l'ormai noto immobiliarista romano, finito in diversi procedimenti della Procura di Roma, tra i quali anche quelli per finanziamento illecito alla politica, per i casi con la Lega e con Bonifaci, l'ex tesoriere del Partito Democratico. Ci sono una serie di imprenditori, piccoli o grandi che siano. Poi c'è il caso dei Fusillo, come giustamente prima dicevi, che insomma sono finiti anche sotto inchiesta per questi finanziamenti. Insomma, diciamo che la Procura di Bari ha un maxi procedimento al cui interno ci sono una serie di aspetti che devono essere verificati e accertati. Certo, al momento è ancora presto per parlare di responsabilità penali, diciamo che ci sono delle responsabilità nella governance per come ha gestito l'istituto e per come poi alla fine si è ridotto. E su questo vorrei arrivare con Angelo Mincuzzi, perché al di là poi del caso, dei casi specifici, qui c'è un oltre che una similitudine molto forte in come la banca salta, cioè prestiti che diventano dati non seguendo i criteri di sana e prudente gestione e soprattutto i criteri di spacchettamento del rischio e soprattutto di solvibilità, come fanno normalmente. Però c'è il tema anche della governance, che può sembrare una cosa tecnica, però attenzione, perché noi abbiamo visto sia con Consoli in Veneto Banca che con Zonini in Popara di Vicenza che con la gestione, diciamo, della Cassa di Risparmio di Genova e anche in parte sulle quattro banche popolari, le prime, un problema enorme, cioè la permanenza, nel caso della Popolare di Bari e la famiglia Jacobini, degli stessi vertici a lungo, e questo ha creato indubbiamente un problema. Tra l'altro lo stesso De Bustis viene sanzionato dalla Consob, lui ha in mano la banca dal 2011 al 2015 e poi torna, ma De Bustis viene sanzionato come direttore generale della Banca del Salento nel 2001, poi viene rimultato per 150.000 euro dalla Consob nel 2005 per i prodotti My Way for You, che qualche ascoltatore ricorda, e poi anche Banca 121. Ora, il tema però si pone, la Banca d'Italia dice: guarda che io ho fatto delle proposte, il Parlamento non le ha ancora trasformate in legge. Il tema della governance è fortissimo, ma ecco qui cosa vediamo nella Banca Popolare di Bari, cosa che a Bari era risaputa, ma appare lampante in questi giorni, in queste settimane, cioè il ruolo di Marco Jacobini, padre e padrone di questa Banca Popolare. È entrato 41 anni fa nella banca, fondata dal padre certamente, quindi nel frattempo è caduto il muro di Berlino, ma Jacobini è rimasto sempre lì e in questo modo ha tessuto la sua rete di certo. collegamento, ma come è accaduto anche nelle banche venete, certo. come accade in tantissime banche territoriali, si tesse una rete di relazioni. E in questa rete di relazioni ci sono i crediti che vengono concessi giustamente alle imprese, alle persone che lo chiedono e che lo meritano, e ci sono anche quei crediti che invece vengono concessi soltanto in funzione di un'amicizia o di relazione. Amicizia, diciamo, di una logica di scambio di potere. Di una logica di scambio. Insomma, è un'altra cosa a casa mia. Di una logica di scambio e di potere che poi porta a queste conseguenze. Abbiamo detto, cioè il copione è lo stesso alla fine, purtroppo. Quindi c'è un problema di fondo che non riguarda soltanto la Banca Popolare di Bari, ma probabilmente riguarda altre banche più locali, no? Non parlo delle banche nazionali, che probabilmente va risolto per evitare che in futuro accadano e si ripetano episodi del genere. Grazie Angelo Mincuzzi da un lato e grazie anche a Ivan Cimarusti dall'altro. Allora, adesso andiamo sul GR24 e poi diamo sintesi dell'intervento di Trump, devo dire molto, molto breve, e anche la borsa. Visto che parliamo di borsa, vi do la chiusura intanto di borsa, più 0,46% Milano, più 0,70% Francoforte, più 0,30% poco mosse dopo le parole di Trump, devo dire. Londra invariata, Dow Jones invece è cresciuto un po', mezzo punto dopo l'intervento di Trump, più 0,74%, Ben Atlantia più 4%, Leonardo più 3% e Azimut più 2,40%, Moncler più 2,20%, Banca Generali più 2% come Pirelli e Italgas. Meno 2,90% Telecom Italia, meno 1,40% Poste Italiane, meno 1,30% Fiat Chrysler, meno 1,20% Buzzi Unicem, meno 0,80% Eni. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Vedo che alcuni piace questa nuova base, altri no.

Sì, esattamente, diciamo, oggi il titolo ha beneficiato delle indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore su un maxi piano di investimenti allo studio da parte della controllata Autostrade per l'Italia, e che sarebbe visto come un'ultima carta da giocare con il governo proprio per evitare la revoca delle concessioni. E questo piano sarebbe un nuovo, nel prossimo CDA di Autostrade per l'Italia è prevista la discussione sul nuovo piano industriale, che dovrebbe rappresentare un cambio di passo rispetto al passato, con significativi investimenti sulla manutenzione, e poi, diciamo, in qualche modo questo verrebbe presentato poi al governo. E ci sono gli analisti che sono ancora convinti che la posizione che sta cercando il governo è un po' di forza per poi trattare, ma in realtà comunque ci sono ancora spazi per evitare la revoca. Sì, già ieri era in rialzo il titolo, oggi è il miglior titolo, più quasi 4%. Leonardo più 3%, beh, anche qui l'aerospazio difeso, l'abbiamo commentato anche ieri. Azimut più 2,4%. Invece su Telecom ci sono state nei giorni scorsi le indiscrezioni, i timori su un'inchiesta brasiliana. Oggi però il titolo, che perde il 2,90%, nel finale il peggiore tra quelle a maggiore capitalizzazione, si muove su altre, diciamo, ipotesi. La questione, quella dell'indagine brasiliana, sembrava già assorbita ieri. Oggi è stato il peggiore, ha perso il 2,9%. Continuano ad esserci incertezze riguardo a quella che è la rete, il tema della rete unica. Oggi il Corriere ha riferito che l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti avrebbe incontrato avrebbe visto in incontri separati i vertici sia di TIM che di Enel, però in qualche modo vengono visti ancora come interlocutori. C'è ancora in corso la selezione per un fondo infrastrutturale da coinvolgere nell'operazione. E in più viene segnalato il fatto che anche se il governo vede con favore l'idea di una rete unica che vede coinvolti questi soggetti tutti insieme, in qualche modo sembra che non arrivi mai la spinta decisiva per finalizzare questa operazione. E in più oggi, appunto, sono arrivate indicazioni che da una SIM importante milanese sarebbe stata una bocciatura del titolo, anche se poi, appunto, diciamo, le indicazioni che venivano date erano più su questa questione della rete unica, che probabilmente il titolo era corso molto, era salito, ha avuto comunque un 2019 in cui c'erano state in più occasioni dei momenti in cui il titolo era stato oggetto un po' di speculazione, e poi adesso, diciamo, quello che è forse uno dei dossier più caldi, però non arriva mai a una conclusione. Altro titolo, mi riferisco a Mediolanum, perché oggi c'è stata conferenza stampa dei vertici di Mediolanum a partire da Massimo Doris, che è stato delegato di Banca Mediolanum. La raccolta a dicembre risultava positiva per 810 milioni. E tra l'altro ha detto che verrà Massimo Doris, che verrà pagato un dividendo straordinario nel 2019. Il titolo. Appunto, il titolo oggi è andato bene, è salito del 2,33%, e una delle indicazioni che ha aiutato proprio a dare sostegno al titolo è proprio questa al di là della raccolta, proprio questa indicazione sul fatto dividendo, che pagheranno un dividendo più alto rispetto a quello degli anni precedenti, e in più, visti i risultati positivi del 2019, ci sarà anche un'extra cedola. E oggi comunque è stata da segnalare una giornata positiva per tutto il risparmio gestito. Infatti nel FTSE MIB, come segnalavi tu, Azimut ha fatto più 2,4%, anche Banca Generali ha salita quasi del 2%. Allora, tra i titoli che sono andati bene, che non ho citato, oltre a Banca Generali, Pirelli più 2%, Italgas anch'esso, poi Ferrari più 1,90, Ferragamo 1,70, A2A più 1,70, Finecobank più 1,60, Unicredit più 1,30, mi fermo con Terna e Saipem, che guadagnano l'1%. Invece, migliori e peggiori in assoluto, Titanet più 22,80, Gequity più 14,60, Cyberu più 8,40, Dominion Hosting più 7,60, fronte opposto invece Mondo TV Suisse e Mondo TV France perdono il 7%, WM Capital il 6%, EMS il 5,70%, Invest il 4,70%. Grazie anche, chiaramente, come sempre, ai colleghi di Radio Core, il Sole 24 Ore, per l'aggiornamento. Grazie in questo caso a Flavia Carletti. Adesso andiamo sul discorso di Trump, e devo dire che dopo le parole di Trump la prima notizia riguarda il petrolio, perché è calato moltissimo. meno 4,5% sotto i $60 il barile, praticamente ha annullato tutti i rialzi dopo l'uccisione di Soleimani e le tensioni fra Stati Uniti e Iran, a dimostrazione che già il rialzo era stato a mio avviso poca cosa, $63-64 sul WTI, $70 massimo sul Brent, ma a maggior ragione adesso è completamente rientrato tutto il tema petrolio. Questa è forse la reazione di mercato più significativa alle parole di Trump. Cercheremo di ascoltarle dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Molti stanno scrivendo sulla base nuova della prima ora, alcuni l'hanno individuata, altri l'hanno proprio cannata. Vabbè, magari la rimettiamo dopo il traffico. Focus Economia. Allora, per alleggerire un po' la puntata, diamo un altro indizio, è una canzone degli anni 70, così, riproposta in un film che è uscito poco fa. Ma non è questo il tema di oggi, non è questo il tema di questo approfondimento. Intanto vedo che lo Standard & Poor's, quindi l'indice americano, ha fatto il nuovo record, è andato un nuovo record dopo le parole di Trump, adesso sta guadagnando lo 0,60%, il petrolio, come dicevamo, è ritornato ai livelli pre uccisione di Soleimani. Allora, il presidente americano: l'Iran non avrà mai l'atomica finché ci sarò io. Gli USA imporranno nuove sanzioni all'Iran, tutte le opzioni restano sul tavolo con l'Iran. Serve un accordo però che faccia prosperare e che permetta all'Iran di crescere e prosperare. Noi siamo pronti ad abbracciare la pace con l'Iran, l'ha detto Trump rivolgendosi al popolo e ai leader iraniani. E poi ha detto la NATO dovrebbe essere più coinvolta in Medio Oriente, e ha poi sollecitato l'Europa, la Cina, la Russia e altri paesi ad uscire dall'accordo sul nucleare iraniano. As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. E poi appunto la frase che avete sentito: nessun americano è rimasto ferito, solo piccoli danni, ma i nostri soldati sono rimasti incolumi. Marco Vassania in collegamento dalla sede sulle 24 ore di New York. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Marco, intanto spieghiamo quali sono le parole di Trump che hanno tra virgolette entusiasmato i mercati, o meglio hanno fatto calare in maniera abbastanza repentina il petrolio del 4,5% e portato il Standard & Poor's al nuovo record più 0,64%. Qual è l'elemento positivo che i mercati hanno voluto vedere in questo intervento di Trump? Ma sicuramente la de-escalation militare, il fatto che Trump, come si era intuito, diciamo, già nelle ultime ore, ha poi confermato formalmente ufficialmente che in questo momento gli Stati Uniti, in questo momento la sua amministrazione, non risponderà militarmente all'attacco iraniano sulle due basi in Iraq, e invece, diciamo così, la risposta che ci sarà. La risposta che ci sarà è la attendiamo adesso nel frattempo, perché il collegamento è saltato con New York, immagino che sia un problema solo di linea, l'abbiamo sentito in diretta. Allora devo dire che nel frattempo anche, vi do gli aggiornamenti, meno 3,2% anche il Brent, quindi il petrolio dei Mar del Nord, allentamento anche in questo caso dovuto all'allentamento delle tensioni, cioè l'allentamento lo vedono i mercati, tra Stati Uniti e Iran. Marco Bassani, stavi dicendo appunto la de-escalation, quindi il passaggio di alcune frasi in cui Trump ha detto siamo pronti ad abbracciare la pace, vorrebbe un accordo che faccia prosperare l'Iran, questi passaggi. Esatto, fondamentalmente quello, e la conferma, diciamo così, dell'interpretazione di quello che ha ascoltato dall'Iran, cioè il fatto che ha detto pare che l'Iran voglia tirarsi indietro in questo momento, cioè tirarsi indietro da uno scontro militare. Quindi diciamo questa de-escalation, diciamo, ufficializzata dalla dichiarazione dalla Casa Bianca di Trump ha diciamo dato fiato agli investitori, agli operatori nello spingere al rialzo i mercati, allontanando lo spettro di un conflitto, diciamo di un contagio di un conflitto medio orientale di cui contorni apparivano altrimenti estremamente drammatici. Ecco, resta la ricostruzione del perché Trump si sia mosso adesso. Ora, la stampa americana sta accreditando l'idea, che circolata anche per carità in Europa, di un Trump che al di là dei motivi di sicurezza nazionale abbia deciso di fare questa mossa per motivi elettorali, perché lì abbiamo visto due sostanzialmente interpretazioni divergenti. Una dire in questo modo distogli l'attenzione dall'impeachment e dai un segnale di avere polso nella gestione delle questioni internazionali. L'altra dice no, attenzione, non conviene mai a un presidente americano quando va sotto elezioni per il rinnovo del mandato avere un conflitto, una tensione di carattere anche militare in corso. Ma sì, diciamo il fatto stesso che ci siano queste interpretazioni divergenti segnala quanto sia, quanta incertezza resti, diciamo, proprio sulla politica estera americana, sulla strategia di Donald Trump, che ormai è circondato anche da un gruppo molto ristretto di consiglieri, e quindi diciamo sicuramente l'amministrazione americana, e in questo momento l'amministrazione Trump, fa molta fatica a chiarire quale sia appunto il suo messaggio, quali sono le sue motivazioni, quale sia la strategia di fondo. Alcuni, come dicevi tu, soprattutto i critici, diciamo, di parte democratica, fanno balenare anche l'ipotesi di un tentativo di distogliere l'attenzione, di apparire forte, diciamo, sul fronte domestico, magari calcolando male i rischi di conflitto, i rischi di aspetti di guerra. Dall'altra un'altra interpretazione, forse più, diciamo, un po' più istituzionale, indica che Trump si è trovata, diciamo, in una situazione di sentire di dover rispondere dopo non aver risposto alle precedenti provocazioni, mm-hmm, diciamo così, iraniane nel Golfo, sulla strada di Hormuz, contro le strutture petrolifere dell'Arabia Saudita, e quindi si è sentito a un certo punto di dover, diciamo, dare un segno molto forte, anche rischioso, per, diciamo così, per dare un messaggio di stop a Teheran, uh-huh, nell'escalation delle tensioni. Detto questo, l'interrogativo di fondo però resta quello iniziale, cioè la difficoltà di capire quale sia la strategia di fondo. Anche le parole di oggi di Trump non hanno più di tanto chiarito questo, perché si è lanciato anche questa apertura potenzialmente diplomatica, sì, a negoziati, e un ruolo potenziale della NATO in Medio Oriente. Ecco, sono, diciamo così, messaggi che restano probabilmente vaghi, che non sono al momento sostanziati da piani, da briefing di background dell'amministrazione che facciano capire quali passi concreti possano essere presi per arrivare a questo tipo di obiettivi. Quindi diciamo l'incognita di fondo della strategia nei confronti dell'Iran e nei confronti del Medio Oriente dell'amministrazione Trump restano molto aperti anche in presenza di questa, diciamo, de-escalation odierna dello spettro dello scontro militare. Allora, noi restiamo sul tema materie prime. Intanto grazie a Marco Bassani in collegamento con noi da New York. Restiamo sul tema delle materie prime, perché in realtà la mia sensazione, però è la mia sensazione, è che vabbè, adesso il petrolio è ritornato ai livelli pre Soleimani, diciamo così, ma non si era mai mosso in realtà in maniera così forte. L'abbiamo visto arrivare a $63-64, il Brent a $70, E oggi vi era stata una dichiarazione dell'OPEC e anche degli Emirati Arabi che aveva chiarito, insomma, che il problema sul fronte petrolifero non si poneva. Secondo me la vera notizia, però chiedo alla massima esperta di petrolio, non solo, al Sole 24 Ore. Sissi Bellomo, buonasera. Buonasera. La vera notizia è proprio forse il non movimento del petrolio. C'è chi ha detto, guardate che in realtà la tensione non salirà alle stelle, e c'è chi ha fatto notare che l'America è quasi autosufficiente, la produzione è ancora alta e quindi prima di arrivare a una tensione sul prezzo ci sarebbe voluto ben altro. Quale delle due, Sissi? Ma in realtà le quotazioni del petrolio, così come quelle di molti altri asset finanziari, nella giornata di oggi è stata molto volatile. Mm-hmm. Questa mattina, sui mercati asiatici, quando i nostri mercati non erano ancora aperti, ha fatto un balzo del 5% alla notizia dell'attacco iraniano in Iraq. Il petrolio è sul chi va là, gli investitori sono sul chi va là. È chiaro che c'è un potenziale premio per il rischio geopolitico che viene incorporato nei prezzi, ma molto brevemente. Hai ragione a sottolineare che la vera anomalia di tutta questa situazione è questa scarsa reazione del prezzo, reazione che cambia in realtà nell'arco di poche ore. Adesso a tranquillizzare il mercato è intervenuto il discorso di Trump, ma già in precedenza c'erano state rassicurazioni perché le dichiarazioni erano state comunque abbastanza conciliatorie, non c'erano state vittime, anche questa ritorsione iraniana. Sì, poi l'ipotesi che è circolata che l'Iraq avesse avvisato i militari e gli Stati Uniti prima dell'attacco, quindi insomma gira anche questa, un attacco abbastanza telefonato, potremmo dire in gergo. Beh, d'altra parte l'assenza totale di vittime lo fa sospettare davvero. È stata una ritorsione per salvare la faccia. L'Iran la doveva, la sua opinione pubblica interna, ma qui si ha la sensazione, e con le parole di Trump ancora di più, che non si voglia andare al conflitto aperto. E quindi ecco questa reazione altrettanto violenta delle quotazioni, che dopo il balzo del 5% stamattina, quelle del petrolio, stanno adesso perdendo circa il 4%. Però resta sullo sfondo, Sissi, per concludere, una capacità produttiva tra virgolette in eccesso, cioè alta, non una tensione sull'offerta. Assolutamente sì, c'è una capacità produttiva di riserva all'interno dell'OPEC che è abbastanza ampia storicamente, però c'è da dire che se ci fosse stato veramente un conflitto, se ci fosse un conflitto, se dovessero esserci gravi situazioni in Iraq, che è un paese che è un grande produttore di petrolio, il secondo nell'OPEC dopo l'Arabia Saudita, ecco, in quel caso potrebbe essere effettivamente un problema sostituire eventuale produzione mancante, per cui il mercato, come direbbero poi gli anglosassoni, mostra un po' di complacency, un po' di compiacenza di fronte a questa situazione che sì è di offerta sufficiente, disponibile, abbondante, ma i rischi in quella zona, nel cuore del Medio Oriente, sono effettivamente molto alti, come non erano da anni, e noi non possiamo escludere che essere tranquilli totalmente che non succederà niente. Grazie anche a Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Oh, chiariamo il quesito con cui abbiamo cercato di alleggerire la puntata. Quando abbiamo una nuova base la usiamo diciamo tutta la puntata e poi invece entra nell'archivio, nel giro delle basi. Allora, qualcuno mi ha scritto musica celtica, Queen, altri, Madonna. No, guardate, la canzone si chiama Malamore, è degli anni 70. La versione è quella nuova, quindi non è quella di Enzo Carrelli ma di Sinigallia, perché il film è Lo Spietato. Così abbiamo chiuso. A chi mi ha chiesto cosa vinco? Nulla, anche perché molti hanno risposto utilizzando Shazam, e quindi a maggior ragione non vinci nulla. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata.